Fini lei, come lo considera? Una nullità assoluta. No, no, è una nullità assoluta. Fa politica da 30 anni, insomma, anche lui ha 40 anni. Sì, perché diciamo ha collezionato una serie di errori politici macroscopici, oggi si trova nell'angolo. E se il mio collega, i sondaggi dicono Berlusconi, che è uno che vuole fare, fosse... vuole riportare la spesa al sud, mi sa che... Ma lui veramente portava la borsa della spesa, la vedo alla signora Mirante, e così è diventato qualcuno. Forse anche qualcosa in più ha fatto. Vabbè. E quindi non rappresenta certamente né il nuovo né il meglio. Non rappresenta nord, è un uomo della prima repubblica. A nord conta qualcosa? Fine. Un cazzo. No, vabbè, che giudizio politico, onestamente è? Parlando, politologo, onestamente parlando, non parla, diciamo, come pare Bianco, ma, insomma, è chiaro, no, onestamente parlando, secondo me sarebbe difficile trovare una parola più appropriata. Non conta nulla, io dico nulla. È di un'educazione, forse, è di un'educazione, forse nel condominio di Boulevard Princess Caroline, non so, Charlotte. Dove Charlotte, esatto, può darsi che lì, in quel condominio, diciamo, dove i sondaggi gli danno l'8%, dove, no? Dove il suo capo famiglia, il giovane Tulliani, è più conosciuto e, diciamo, è il condomino più importante, lui che porta sempre, penso, sempre la borsa della spesa, lì un certo ruolo ce l'avrà.